E noi continuiamo a cavalcare l'onda lunga della nuova televisione, quella che offre in questo momento le maggiori possibilità a chi desidera lavorare in questo ambito, e c'è una professione che è in grado di soddisfare le esigenze delle nuove TV tematiche, quindi quelle che si concentrano su un argomento, su un settore in particolare, professione che è quella del documentarista. Il proliferare dei canali televisivi sulle pay per view, sulle web TV e così via fa pensare che ci sarà sempre più bisogno di prodotti di questo tipo, quindi di documentari che associano la qualità a un ottimo rapporto costi e benefici. Ci spiega nel dettaglio chi è il documentarista Francesco Giordana, docente di comunicazione d'impresa alla IULM, che è in linea con Radio 24. Buonasera. Buonasera. E anche coordinatore del Master per documentaristi della Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo di Torino. Allora, il documentarista è un esperto di comunicazione per immagini. Un regista, come è facile pensare, ma non soltanto. Non soltanto, qualcosa di molto più complesso. Nella figura del documentarista ci sono almeno quattro figure professionali. L'educatore in generale, come ogni comunicatore, questo lo mettiamo per cappello e per contenitore. Ma poi soprattutto ci deve essere un giornalista, ci deve essere un telecine operatore, ci deve essere un regista e io direi anche un autore, perché gli storyboard, i contenuti devono far parte della professione, quindi è una professionalità molto complessa, molto specifica, che deve racchiudere, riuscendo a farle convivere fra di loro senza che l'una prevalga sull'altra, queste quattro professionalità. Non soltanto chi ha seguito una formazione legata al cinema o legata allo spettacolo può aspirare a questa professione, anche lauree in materie umanistiche come filosofia, lettere, ma anche scienze politiche piuttosto che psicologia sono indicate? Assolutamente, aggiungerei anche a quelle che lei ha giustamente indicato, aggiungerei anche architettura ad esempio, aggiungerei tutte quelle lauree, tutte quelle specializzazioni che riguardano le materie umanistiche, la comunicazione, le arti visive, così via, ma anche architetti, anche personaggi che si vogliono esprimere in un modo artistico completo. Acquisendo quindi inevitabilmente anche competenze tecniche. Ecco, questa è la parte più delicata, infatti noi per le competenze tecniche ci siamo appoggiati a dei tecnici di provata fede, cioè tecnici della RAI, tecnici che stanno seguendo quella che è l'evoluzione dei mezzi tecnici. Basti pensare a quello che è successo in questo campo negli ultimi 7, 8, 10 anni e quindi dovremmo preparare veramente sotto l'aspetto tecnico non solo un telecine operatore, ma anche qualcuno che abbia una visione più ampia del suono, della luce, per capire che la stessa ripresa fatta in condizioni ottimali può rendere molto di più e può esprimere qualcosa di diverso. Gli ambiti in cui può spaziare chi farà questo mestiere sono infiniti, i documentari possono essere girati intorno a qualunque argomento. Infatti, un altro punto forte è che non ci sono limiti, i primi che vengono in mente sono l'ambiente, il turismo, ma oltre a questo basti pensare nel campo industriale e soprattutto un dato dovrebbe far riflettere, le nostre stazioni televisive, i nostri canali televisivi si rivolgono a un mercato, a una produzione anglosassone, quindi inglesi, americani, australiani. Quindi importiamo. Li importiamo pagando cifre notevoli, mentre in Italia non esiste una casa di produzione vera, non esiste qualcuno, una catena reale che produca dei documentari, dei prodotti adeguati per le richieste dei nuovi canali televisivi. Per cui abbiamo pensato di diventare noi stessi casa di produzione. Al termine del master, chi l'avrà frequentato si troverà di fronte alla possibilità di operare per una casa di produzione nostra. Le informazioni sono al sito www.rebaudengo.it. Grazie Francesco Giordana, docente di comunicazione d'impresa alla IULM e coordinatore del master di cui abbiamo parlato. Grazie a lei. Grazie ancora, buonasera.